265. Pollo con le salsicce. Tritate minutamente mezza cipolla e mettetela in una casseruola con un pezzetto di burro e 4 o 5 fettine di prosciutto larghe un dito. Sopra questi ingredienti ponete un pollo intero, conditelo con pepe e poco sale e mettetelo al fuoco. Fatelo prendere colore da tutte le parti. E quando la cipolla sarà tutta strutta, bagnatelo con brodo con acqua e aggiungete 3 o 4 salsicce intere fatte di fresco. Lasciate cuocere a lento fuoco, procurando che in ultimo resti dell'umido.